contatto di Maligno nella radio. Siamo solo a 4.00, Cavagava, è di lusso. Come va lì da te al giù? Sono forte qua. C'è il cambiamento, caro Michele. Che vuol essere il cambiamento? Se sono attenuato, io tengo sempre attenuato. Positivo. però a quanto pare quelli che hanno fatto il vaccino l'hanno presa doppia. D'altronde con questo tempo, hai visto il caldo dell'altro giorno, poi siamo passati da 25 gradi, abbiamo perso 10 gradi, l'altra volta abbiamo perso 10 gradi, così, cosa mica va bene quello. Lo so che non va bene, e ti dico che, cazzo, vuoi pure un muretto. Figurati che l'altra volta mi sono venuto al tavolo, mentre non ho coperto perché mi ero alleggerito, e invece subito dopo, la notte, quasi le piove di notte, e la notte c'era pure tu. Ci credo, io a mattina invece, mi sono tolto il giubbotto giù, stabilmente ero col golfo, no, col golfo della divisa, quello a collo alto, beh ti dico che mi ha rimesso il giubbotto. Poi mi ha fatto anche un po' male perché sono andato, ero fatto lì per fare, le visite, sono entrato che c'erano vivo, lo voglio sempre 40 gradi, poi sono uscito immediatamente fuori, tutti per mangiare l'escursione termica, da poi la sera ero tutta dolore, ma dolore, non la posso tutta dolore. Me la posso immaginare, e intanto poi non ce ne sono sprechi in questi cosi pubblici, quanto spreco c'è, ma dico che bisogno c'è di tenere la temperatura così alta? Perché non se ne stanno mai che corde, hai capito? Chi la prende è quello che entra e che esce, ma una cosa, guarda, ti giuro, sono loro, ma non mi è mai capitato, sono dovuto correre alla macchina, perché mi ha preso questo furretto come sono uscito, ma era una cosa, prova. Quello è il classico colpo d'aria e quelli sono quelli più pericolosi. No, io ho capito che bisogno c'è, uno si mette se c'è freddo, oddio, se c'è un pochettino la temperatura anche lì dentro si mettono un maglioncino, una cosa, non si bocca, tra gli altri che dici lì, li rifari, da poi se sono malati, cazzo magari attraversare e dici malati. E infatti, quello è vero, come quando c'è mamma ricoverata, tu entri in coso, in ospedale, ma cioè, non si può manco respirare, come esci che sei fottito? Che lo dice a me, quel pedo che ho fatto adesso, andando e tornando, guarda, non sai come arrivo, triccio, una cosa, ma si lamentavano anche poi i pazienti, ecco. E poi il bello è che vengono a romperti le scatole dei riscaldamenti domestici, no, ad abbassarli. E lì spreco, vai che ce n'è. Tu sei entrato in quei giorni scorsi che c'era caldo, poi non ti potevi ancora aprire la porta del corridoio per avere un'escursione intorno a tutti i calori che non ti dico. Eia, e per quello già sembra sempre stati di dentro. Beh, tutto spreco poi, E non è tutto spreco quello, per le caldaie, cazzo, al limite proprio della sopportazione, cazzo, io dico che sono un pericato al limite. Infatti, ovvero che sono passato lì sotto il coso, il caldaista gli ho detto, guarda se puoi dare un altro paio di gradi che ce ne sono troppo pochi. Ma ci sta aggiunta gli attacchi a un luogo che sappiamo noi. Cava, cazzo, figurati tu. Io, basta che sia roba pubblica, da poi già paghiamo noi, appena tutti. Adesso gli hanno tolto anche il gas e hanno rimorri messo il caldaio a gasolio, figurati. A chi pidi più? Oh, a chi più gas, costava un po' di più, hanno considerato che il gas ne costava molto di più. Figurati, a quando a scaldare tutto, proprio gas, aria propanata era. pescato è quello che c'entrava al giorno. Non era poco perché ho saputo che era il 65% in più. Cazzarola. Adesso tu immagini una spesa con 65% in più del gasolio, hanno fatto i confronti e non c'erano. Allora hanno ritornato le centrali termiche, hanno tolto i bruciatori, hanno messo quelli a gasolio e stanno di nuovo portando a gasolio. Ritornati alle origini, diciamo. Sì, beh, basta cambiare i propri termici, che a dirlo così, la voce sembra ancora facile, ma i propri termici costano anche. Ebbene, qualsiasi cosa che ti tocchi sono sperle di migliaia di euro. Praticamente sarebbero i bruciatori, cambiare i bruciatori, no? Anziché a gas le mettono l'alimentazione a gasolio, la spesa di questi per il gesso è una spesa enorme, però considerato che la spesa era di 65% nei confronti del gasolio, penso che abbiano valutato bene, perché ritornare tutta l'origine non è una cosa facile, quindi le spese da una parte, le spese dall'altra, evidentemente hanno fatto 2 più 2 e sono ritornati al gasolio. Quindi magari poi col tempo riescono ad ammortizzarla quella spesa, invece se rimani a gasolio è sempre lì, sai. E perché qua se ci fosse stato il metano è un'altra cosa, oltre che costa di meno, il gas è naturale e la spesa è molto molto meno, ma tutti quanti che nel confronto dell'aria propagata al metano c'è un divario. C'è quello lì, per esempio, di Cociacchi a 2,98 euro al metro cubo l'aria propanata, però là non arriva neanche a 35. Cavolo, alla grande cara. Così è. Infatti qualche cliente noi ci andava molto che era sul continente, che era col metano. E noi diciamo un riscaldamento al mese, loro me le consumava quelle 30-35 euro, 40 euro al massimo. E invece qua con le bombole o con quello lì ci vuole 700-800 euro. Anche perché poi l'aria propanata è completamente diversa, non è vero? L'aria propanata si chiama così, ma poi non è che è più aria, che è più compressione che praticamente che il liquido, è sotto tutto quello, ma non succede assolutamente niente perché non c'è risparmio con l'aria propanata. L'aria propanata non sai quello che risparmio, che non lo spegne il bombolaio. Infatti, anche poi tutto dice che hanno fatto anche le prove e ci mette anche più tempo a bollire una pentola d'acqua alla pari di mettere di usare il gas in bombola. Comunque, per farla breve, tra uno e l'altro ci sono 15 centesimi, 16 centesimi di prezzo attualmente. E non sono pochi. No, non sono molti, se considero sono molti. Però arrivati a un certo punto quello che risparmi da una parte lo spendi dall'altra, perché se io per far bollire una pentola d'acqua o per farci metto, che ne so, con la bombola 5 minuti e con l'aria propanata ce ne vogliono 8 o 10, il risparmio se ne va a farsi benedire. Ma diciamo che è quello lì, la sostanza è quella. Comunque anche chi ha il gas in bombole per l'acqua calda, che c'è la caldaia a gas e tutto quanto, sai che moltissimi dei nostri clienti sbagliano. E come mai? Beh, perché siccome il tasso si chiama caldaia, puoi regolare la temperatura. Se tu a state scaldando e poi ce la deve raffreddare. In quella maniera te la prendi già direttamente alla temperatura accettabile, senza bisogno di coso, di miscelare, hai capito? Quindi con risparmio notevole di gas. Da ora, quindi. No, io già ci ho pensato perché bene o male i conti te li devi sempre fare e il 2 più 2 deve fare sempre 4. Risparmio energetico alla grande. Vabbè, perché se no sempre perché è vero, arrivi da un certo punto dove si può per fare, beve venga. Quanto alle prossime domani. Ciao ciao. Ciao ciao.